Siamo in collegamento con un occupante del Teatro Valle. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa per presentare il progetto del nuovo teatro. Ciao, ci vuoi raccontare com'è andata? Ciao, beh, dal nostro punto di vista è andata benissimo, c'erano tantissime persone, abbiamo presentato la nostra proposta per il Teatro Valle, che è quello di trasformarlo in un ente pubblico, in una fondazione che sia dedicato alla promozione della drammaturgia italiana per il 150° dell'Unità d'Italia. Un centro che attualmente non esiste in Italia, un centro che appunto si è dedicato proprio alla scrittura teatrale, mentre esiste all'estero esempi importanti sono per esempio lo Schaubühne di Berlino o il Royal Court di Londra. Un centro che abbia oltretutto un'attenzione forte per il contemporaneo, per le giovani generazioni, per la ricerca e per il nuovo.